Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Autostima, determinazione, ottimismo quanto basta. E questa è la ricetta per iniziare l'anno con il passo giusto. A Obiettivo Salute il dottor Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, coach e autore del metodo Ongaro. Dottor Ongaro, buongiorno. Abbiamo tutto l'occorrente o manca qualcosa? Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, sono sicuramente tutti concetti molto importanti. Cioè, se ognuno di noi possedesse questi concetti, li vivesse sul serio, affronterebbe sicuramente il nuovo anno con un'ottica migliore, però non sono proprio convinto che siano del tutto sufficienti, perché c'è una caratteristica, Nicoletta, secondo me molto importante e spesso dimenticata, che è anche la caratteristica fondante della resilienza, no? Sai che la resilienza è questa capacità di rialzarsi davanti alle difficoltà, ai traumi, alle battute d'arresto, e questa caratteristica è il realismo. Cioè, le persone che agiscono meglio sono le persone che partono sempre da una grande sensazione di realismo, un'accettazione completa della realtà, piuttosto che la fantasia ottimistica che però magari poi si scontra con la realtà più tardi e dà vita così a un meccanismo di frustrazione. Quindi se dovessi aggiungere una caratteristica molto utile è quella di essere realisti, cioè affrontare le difficoltà e vederle negli occhi è il prerequisito fondamentale per poi saper agire e superarle. Chi ha tempo non aspetti tempo, compiti a casa. I compiti a casa io credo che siano un compito, io darei, che è veramente fondamentale, ed è quello di iniziare a riflettere sulla propria esistenza attraverso la scrittura. Credo che questo sia un insegnamento molto antico ed è tuttora molto valido. La scrittura e l'uso del diario è molto utilizzata anche in psicoterapia, ma sicuramente anche nel coaching, perché la possibilità di essere più obiettivi, leggermente più distaccate dalle problematiche, cominciare ad analizzare se stessi, le interazioni con gli altri e anche quelle caratteristiche di cui abbiamo citato, il livello di ottimismo, di autostima, quanto realista sei, è davvero un esercizio costante, quotidiano, su se stessi, che porta ad un grande aumento della prestazione. Io lo consiglio tantissimo e devo dire, Nicoletta, che per me personalmente ha fatto una grande differenza, proprio quello di dedicare 5-10 minuti al giorno alla scrittura su un diario, in modo da riflettere sulla propria realtà. Allora, mettiamoci alla prova, scriviamo la prima pagina insieme. Da cosa cominciamo? Ecco, qui è molto variabile. Si può cominciare sia con una scrittura completamente libera, quindi pagina bianca, scrivo quello che mi viene in mente, e di solito così riescono meglio quelli che hanno, diciamo, una grande consapevolezza sul proprio autodialogo. Le persone che sono un po' meno consapevoli hanno in genere bisogno di un po' più di struttura. Potrebbe per esempio essere gli obiettivi della giornata, potrebbe essere scrivere tre cose per cui sei grato, potrebbe essere come instaurare per esempio un meccanismo di perdono nei confronti di chi ti ha fatto un torto. È molto soggettiva la cosa, quello che conta è diciamo tenere presente che più fai fatica a scrivere, più vuol dire che c'è una distanza tra il tuo mondo razionale e quello più profondo interiore, ed è una distanza che va colmata, perché noi alla fine, Nicoletta, siamo espressione di entrambe le cose, non soltanto della componente razionale. Allora, carta e penna, pronti e via. Ringrazio Filippo Ongaro per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Bene, per oggi è tutto, vi devo salutare, ma vi rimando come ogni giorno alle pillole di salute. Le parole contano, impariamo a comunicare. Questo è il tema di oggi, un saluto da Nicoletta.